giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Esplosione per la fuga di gas da una bombola in una villetta alla periferia di Pordenone, 4 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, immobile devastato. 5 misure cautelari nei confronti di altri tanti cittadini pakistani dopo un'indagine della polizia locale tra gruppi di giovani migranti in Piazza Libertà a Trieste. Avevano formato una banda che agiva compatta con minacce e violenze sugli stranieri presenti, uno dei quali ha denunciato al tutore le vessazioni subite. Arriva la reazione dei volontari dopo la sanzione con penale a carico di un responsabile comunale della protezione civile per l'incidente accaduto a Verzennis in cui morì un volontario di Preone. Il tutto deriva dalla recente equiparazione del ruolo del coordinatore con quello di un dirigente. Ex Ilva e scontro legale sulla decarbonizzazione tra la Daniele Invitalia e il gruppo friulano ha inviato una diffida per la commessa affidata alla società tedesca Wurth. Con la lectio magistralis di Michele Vendruscolo, professore di biofisica all'Università di Cambridge, incentrata sull'evoluzione dell'Alzheimer, è stato inaugurato il nuovo anno accademico alla Scuola Internazionale Studi Superiori Avanzati SISSA di Trieste. Ancora pioggia nella giornata di oggi, ma il maltempo concederà una tregua nel fine settimana con il ritorno del sole, ma con il calo delle temperature ne parleremo con il previsore dell'ARPA. Le 12:31 minuti e 30 secondi, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 10 novembre. In apertura dunque la cronaca, perché come avete sentito nei titoli, questa mattina c'è stata un'esplosione in una villetta alla periferia di Pordenone in via del Planton nel quartiere di Rorai Grande, provocata dalla fuga di gas da una bombola. A rimanere feriti 4 cittadini pakistani abitanti dello stabile, 2 dei quali versano in gravi condizioni. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e sanitari dell'automedica e dell'ambulanza allertati dalla centrale operativa Soles. Ma sentiamo i particolari nel servizio di apertura. Il botto, mi tremavano tutti i vetri, sì, che non, però ho detto, ma chissà cosa è successo. Perché le dico, ero sotto la doccia, adesso ho visto tutto il disastro. Ma veramente, sì. I ragazzi li conoscevo, speriamo che sia tutto bene per loro. Un boato questa mattina, attorno alle 8, questa signora lo ha sentito dal suo appartamento poco distante. Una fuga di gas in una piccola abitazione al piano terra in via Locatelli a Pordenone ha causato 4 feriti, 2 gravi con estese ustioni in tutto il corpo. Uno di loro è in condizioni particolarmente critiche. Sono tutti giovani di nazionalità pakistana, come i vicini, ancora scossi ma almeno loro illesi, nella palazzina adiacente. Due persone molto ferito, 2 persone più o meno va bene. Se 4 persone abbiamo abiti qua. Avete avuto molta paura? Molto. La casa è inagibile, la deflagrazione ha divelto il tetto, le tegole sono arrivate fino al lato opposto della carreggiata e sfondato le pareti interne della casetta. Sul posto i sanitari, carabinieri e vigili del fuoco di Pordenone. Il caposquadra Massimo Burella. Uno scoppio che è dovuto a una fuga di gas. Stiamo cercando di capire la fuga da dove può essere partita. La bombola esterna dell'abitazione, però la perdita è all'interno. Via Planton, all'altezza dell'abitazione, è stata chiusa per i rilievi. L'immobile è sotto sequestro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini pakistani sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero al termine di un'indagine della polizia locale tra gruppi di giovani migranti che gravitano in Piazza Libertà a Trieste, recentemente al centro di episodi di violenza proprio tra stranieri. I 5, alcuni con precedenti di polizia e coinvolti in recenti risse, avevano formato una banda che agiva compatta tra i migranti della piazza con atteggiamenti intimidatori. Un giovane extracomunitario vittima di continue vessazioni aveva trovato il coraggio di aprirsi con il suo tutore che si era rivolto alla polizia locale. Grazie alla testimonianza del giovane, confermata da molti altri migranti, gli investigatori hanno potuto così raccogliere elementi a carico della banda per una serie di episodi intimidatori, quali aggressioni, minacce e molestie continue. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha quindi emesso i 5 provvedimenti cautelari per atti persecutori aggravati. Si rischia la paralisi degli interventi di soccorso dopo la sanzione con penale di 1.800 euro a carico di un responsabile comunale della Protezione Civile per l'incidente occorso a Verzennis in cui morì tempo fa un volontario di Preone. Il tutto deriva dalla recente equiparazione del ruolo del coordinatore con quello di dirigente e arriva naturalmente la reazione dei volontari. Attività della protezione civile a rischio dopo la sanzione da 1.800 euro inflitta a un coordinatore della protezione civile per l'incidente mortale al caposquadra Giuseppe De Paoli. De Paoli aveva perso la vita lo scorso 29 luglio mentre era impegnato in un intervento di rimozione degli alberi caduti in seguito al maltempo, una delle tante emergenze che negli ultimi 2 anni soprattutto hanno visto impegnata la protezione civile. La figura del coordinatore è stata infatti equiparata a quella del dirigente. Ora il rischio è di una paralisi delle attività. Andrea Olivetti, coordinatore della Protezione Civile di Monfalcone. Per la cittadinanza di fatto è il fatto che le squadre si trovino necessariamente a dover fermare le proprie attività, fermare a livello cautelativo, cosa che in questo momento non è. Vedremo un attimino con uno spirito che di collaborazione con la nostra regione Friuli-Venezia Giulia, con la nostra direzione, per riuscire a trovare un punto d'incontro e soprattutto risolvere questo che per noi è un problema importante. La responsabilità in capo al coordinatore è notevole, direi forse esagerata per un coordinatore, perché ricordiamo che è un volontario, quindi di fatto presta la sua opera gratuitamente, non può essere equiparato a un dirigente e quindi non gli può essere sanzionata, comminata una sanzione come effettivamente nell'ambiente di lavoro. Dopo la consulta dei coordinatori che si è svolta nei giorni scorsi, è in programma a breve un incontro con la direzione regionale. Giorgio Pinelli, coordinatore distretto di protezione civile Carso Isonzo. L'assessore regionale e la direzione della protezione civile si sono impegnati a dare un riscontro alle problematiche che sono emerse. In base a quanto emergerà da questo incontro qui, la possibilità ci sarà di una modifica della norma nazionale che salvaguardi la protezione civile e i suoi volontari da eventuali sanzioni penali che potrebbero incorrere. Monfalcone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla fine dello scorso agosto, Cordovado ha vissuto per alcuni giorni l'incubo di un uomo barricato nel suo appartamento che si era rifiutato poi di consegnare le armi che deteneva ai carabinieri. In quelle lunghe ore difficili, nel tentativo di arrivare a una soluzione che non mettesse a rischio l'incolumità dell'uomo e nemmeno quella degli abitanti del quartiere, fu chiamato dalle forze dell'ordine un esperto mediatore, abituato già in passato a intervenire in episodi simili. A distanza di più di 2 mesi da quel fatto, l'abbiamo intervistato per ricordare momenti decisivi della trattativa che poi si è conclusa nel modo migliore. Una figura importante impegnata nella risoluzione degli scenari più disparati è il negoziatore dei carabinieri. Incardinati nel nucleo operativo dell'arma sono uomini e donne che vengono attivati nel momento in cui si presentano situazioni di persone potenzialmente pericolose barricate in casa, con un'arma o senza, persone che minacciano il suicidio, un omicidio o di far saltare in aria un palazzo o una presa di ostaggio. Abbiamo avuto modo di conoscerli a Cordovado durante una negoziazione che è durata oltre 50 ore. Oggi abbiamo incontrato il più esperto, Marco Ronco, luogotenente con incarichi speciali. Facendo il carabiniere ci si trova spesso di fronte alle fragilità umane che mi hanno sempre molto colpito. E ho sempre ambito ad utilizzare la mia professione anche per aiutare le persone nei piccoli, nei drammi umani, così, puntando a farlo proprio in virtù del ruolo che svolgevo. Mi era capitato di aiutare individui disperati che cercavano aiuto o di persuadere qualcuno da comportamenti contrari al bene proprio o al bene altrui, ma erano iniziative interpretabili. Questa specializzazione invece permette di farlo spesso o quantomeno di provarci, mettendo in gioco le proprie capacità e la propria umanità. Qual è il percorso necessario? Il percorso si accede attraverso una selezione severa, sia fisica che psicoattitudinale. È tenuto presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri, principalmente dagli operatori di secondo livello del GIS, specializzati nella negoziazione operativa. Lì si avvalgono anche di docenti esterni per alcune materie come psichiatria, sociologia, medicina. E durante il corso la teoria si somma ad un intenso addestramento pratico con diversi scenari per simulare al meglio le svariate ambientazioni nelle quali si possono svolgere le crisi reali. Cosa porta a casa alla fine di una negoziazione? Tendenzialmente cerco di non portarmi a casa troppe cose dal lavoro. Nel caso della negoziazione è un po' diverso, perché il carico umano che si riceve durante la negoziazione è talmente grande che si fatica a non portarselo a casa, almeno in parte. Sono entrato nella vita di persone in momenti complicati, drammatici, ho imparato sulla pelle cosa provocano errori, comportamenti deviati, vizi, debolezze, anche solo sfortunati eventi. Ed è inevitabile che certi insegnamenti ti cambino e diventino parte di te, del tuo bagaglio umano, della tua sensibilità. del tuo carico emotivo e li trasmetti per forza a chi vive attorno a te, anche senza accorgertene, ma soprattutto sapendo come poteva finire a qualcuna di queste persone in crisi che ho aiutato, la sua riconoscenza, il suo sorriso, un lungo abbraccio alla fine di tutto sono sempre il premio più importante. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cerimonia di inaugurazione questa mattina del nuovo anno accademico alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, la SISSA di Trieste, nell'Aula Magna della sede di Via Bonomea. Prima della diffusione degli ultimi dati dell'istituto, Michele Vendruscolo, professore di biofisica all'Università di Cambridge, ha tenuto la lectio magistralis dal titolo Verso una cura per il morbo di Alzheimer. 45 anni di SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, 45 anni di eccellenza nella ricerca. Inaugurato l'anno accademico a Trieste, nei dottorati di ricerca 4 gli anni di impegno, un anno in più rispetto allo standard italiano. Esame di ammissione particolarmente selettivo, 59 posti a concorso, oltre 700 i candidati. Durante il percorso si impara il mestiere della ricerca come nelle botteghe artigianali, con un rapporto 1-1 all'uno docente. Consci del fatto che in futuro non sarà l'intelligenza artificiale a rubarci il lavoro, bensì un umano che sa utilizzarla, alla SISSA si studiano anche i modelli che la regolano tramite l'approccio della fisica teorica. Come indica Alessandro Laio, professore di fisica statistica e biologica, in Italia la preparazione teorica è solidissima, ma le migliaia di ricercatori necessari per sviluppare ChatGPT o i grandi computer di calcolo stanno tutti all'estero, negli Stati Uniti o in Cina. E molti dei nostri cervelli alla fine prendono la via dell'estero. Dei 1.700 dottori di ricerca formati alla SISSA in tutti questi anni, il tasso di collocamento nelle università statunitensi è 10 volte superiore alla media italiana. Un dato che non sarebbe dolce amaro, questo, se l'Italia riuscisse poi a riportare questi cervelli indietro, indica il direttore Andrea Romanino. E per i docenti che arrivano dall'estero, aggiunge, servirebbero semplificazioni burocratiche. Proprio due di loro di recente hanno portato alla SISSA un finanziamento milionario dell'ARC, il Consiglio Europeo della Ricerca. In SISSA la capacità di conquistare questo tipo di risorse è di circa 25 volte superiore alla media italiana. Alle celebrazioni in Aula Magna ha partecipato anche Michele Vendruscolo, professore di biofisica all'Università di Cambridge. La sua lectio magistralis sulla cura dell'Alzheimer. Le neuroscienze sono proprio uno dei campi di eccellenza della SISSA. Due farmaci approvati oggi in America, non ancora in Europa, fanno ben sperare sull'Alzheimer. Stimolano il sistema immunitario a eliminare le tossine che causano la morte dei neuroni. Creano quindi un modello validato per cercare le cure giuste, una fase pionieristica, indica Vendruscolo, paragonabile a quella degli anni 60 nella lotta contro il cancro. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ex Ilva e scontro legale sulla decarbonizzazione tra la Daniele e Invitalia. Il gruppo friulano ha inviato una diffida per la commessa affidata alla società tedesca Wurth. La diffida Invitalia arriva a valle di una serie di esposti da parte di Danieli a qualche settimana dal ricorso pendente al TAR di Lecce col quale si chiede l'annullamento dell'aggiudicazione al colosso tedesco dell'impiantistica Paul Wurth della commessa per la realizzazione di un impianto di decarbonizzazione all'ex Ilva di Taranto con fondi PNRR e il subentro di Danieli oltre al risarcimento dei danni. Con l'ultima iniziativa legale il gruppo friulano sollecita un intervento di Invitalia affinché ripristini la legalità violata dalle condotte di Era Italia, la controllata che ha in mano il dossier. Il responsabile amministrativo e finanziario di Danieli, Alessandro Brussi, spiega che Era Italia ha omesso di applicare il codice dei contratti pubblici, violando a suo avviso in modo palese sia i principi comunitari e nazionali di concorrenza, trasparenza e imparzialità delle procedure a evidenza pubblica, sia la normativa europea e nazionale in materia di utilizzo delle risorse del PNRR. Brussi spiega inoltre che le due offerte sono completamente diverse. La gara chiede impianto chiavi in mano, montaggio compreso, e la contendente tedesca avrebbe offerto solo equipaggiamenti senza la responsabilità del montaggio che da solo vale la metà dell'appalto da 1 miliardo di euro. Aspetti emersi solo alla prima udienza del ricorso al TAR lo scorso 26 ottobre che hanno evidenziato, sempre ad avviso di Brussi, quanto già Danieli aveva segnalato negli esposti, a preoccupare da ultimo la comunicazione del Ministero dell'Ambiente secondo la quale il progetto non sarebbe ancora inserito nel sistema dei progetti autorizzati dal PNRR. PNRR perché ancora non è stata siglata la convenzione per l'utilizzo dei fondi assegnati. Nel documento di diffida Invitalia si chiede ancora una volta chiarezza anche nei confronti della collettività. Intanto Paul Wurth, secondo quanto riferisce Brussi, avrebbe promosso un ricorso incidentale richiedendo che se finisse a favore di Danieli la gara venga annullata e non affidata alla stessa. Se ne saprà di più nel corso della prossima udienza il 30 novembre. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, il cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate poco fa, a Trieste ci sono 14 gradi, a Gorizia 13, a Udine e Pordenone 11, a Tolmezzo 7 gradi, a Tarvisio 6, a Piancavallo e Forlì di Sopra 4, a Sappada 1 grado, sul Monte Lussari 2 gradi, sul Monte Zoncolan 1 grado, sulla costa 12 gradi a Grado e 11 a Lignano. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo intervistato Marcellino Salvador dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Nel fine settimana, salvo una perturbazione che ci interesserà ancora nella notte tra venerdì e sabato e che porterà ancora delle piogge, forse anche qualche temporale, però riguarda solo le ore notturne, poi nella giornata di sabato avremo sole, bel tempo, con temperature massime intorno ai 14-15 gradi circa su pianura e costa. Ad alta quota invece ci saranno venti freddi. Questo potrebbe determinare nel pomeriggio la possibilità di qualche isolato rovescio breve temporale, visto il forte contrasto termico con l'aria ancora relativamente calda presente su pianura e costa, ma è solo una possibilità. Nella maggior parte delle ore al punto il tempo sarà bello. Domenica cielo variabile, passa una perturbazione atlantica però che non produce niente, avremo solo un po' di variabilità, temperature minime che saranno intorno ai 10 gradi e massime sui 15 gradi. Uno dei primi giorni di stabilità completa che poi proseguirà anche nei giorni successivi, l'inizio della prossima settimana, in cui di fatto non succede nulla, avremo solo cielo variabile senza altri elementi significativi. D'altronde ne abbiamo avuti fin troppi fino all'altro giorno. Dal punto di vista delle precipitazioni, siamo nella media del periodo? Siamo oltre la media del periodo ovviamente, perché ormai da 20 giorni abbiamo avuto ripetute perturbazioni anche molto forti, soprattutto sulla fascia prealpina. Però è chiaro che è la stagione in cui si hanno queste perturbazioni forti, anche se quest'anno se ne sono ripetute di più del solito. Però non abbiamo avuto almeno, diciamo, gli episodi più catastrofici come in passato, ricordiamo Vaia 66. Firmata dal sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, l'ordinanza che permette ai cittadini di raccogliere ai fini della combustione in impianti termici il materiale ligneo depositato sugli arenili e le aree demaniali marittime in concessione a seguito proprio degli eventi meteomarini della scorsa settimana. Siamo soddisfatti per l'aspetto proposto da questa ordinanza che viene incontro alle esigenze di molti cittadini, aprendo la spiaggia a un'utilità sociale e ci permette di offrire un'opportunità di sostegno alle famiglie, ha commentato il vice sindaco Manuel Massimiliano La Placa. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e il direttore generale Massimiliano Ciarrocchi hanno incontrato a Trieste, nella sinagoga di Piazza Virgilio Giotti, il rabbino capo della comunità ebraica del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Eliau Alexander Meloni, e il presidente della comunità ebraica di Trieste, Alessandro Salonicchio. Nell'occasione è stata manifestata la totale e incondizionata solidarietà e vicinanza al popolo ebraico e allo Stato di Israele dopo il tragico attacco del 7 ottobre a opera dei terroristi di Hamas. Il diritto all'esistenza di Israele, hanno detto i vertici di Confindustria Alto Adriatico, contiene in sé il diritto alla sua difesa. Un corteo di solidarietà per la popolazione palestinese è in programma a Trieste, in Piazza Libertà, dalle 17. A organizzarlo il Comitato Salam, Ragazzi dell'Olivo. All'iniziativa aderiscono anche altre realtà come la Comunità Islamica di Trieste, Arci di Udine, Pordenone di Trieste, COBAS, Coordinamento No Green Pass, PC, USB. A Trieste superate le 9.000 firme pro Pineta di Catinara su un documento che chiede di impedire opere impattanti previste nel comprensorio ospedaliero di Catinara appunto e sui conseguenti rischi per il Burlo Garofalo. Si potrà firmare ancora oggi, domani, sabato e tutta la prossima settimana nel banchetto dietro la chiesa di Sant'Antonio Nuovo all'angolo tra le vie delle Torri e via San Lazzaro. L'obiettivo, è detto in una nota, quello di arrivare a 10.000 firme da consegnare poi in fotocopia a Regione, Asugi, Burlo Garofalo, Sovrintendenza, Comune di Trieste, nonché quinta, sesta e settima circoscrizione. Da 40 anni non eravamo più abituati a fare i conti con un'inflazione a due cifre che erode i margini di risparmio delle famiglie e grava soprattutto sui redditi più bassi. Ecco allora alcune buone pratiche per risparmiare su spesa e bollette. Continua a correre il caro vita, anche se in maniera meno veloce rispetto al passato. Le stime Istat per il mese di ottobre registrano un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento di 1,8 punti percentuali anno su anno dal più 5,3% di settembre. Calo che è in realtà un'illusione ottica secondo le associazioni dei consumatori, perché il rallentamento dell'inflazione è dovuto soprattutto ai prezzi energetici, meno 30%. A restare alto invece è il carrello della spesa. Raimondo Gabriele Inglaro, presidente del Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia. Il tendenziale sui listini dei prodotti di prima necessità e alimentari è di più 6,5%. Per una coppia con due figli c'è un aumento del costo della vita pari a 520 euro su base annua. Una coppia con un figlio pari a 470 euro, quindi limitatamente a cibo e bevande, e quindi con una media ponderale di 370 euro su base annua. Le misure di contenimento dei prezzi adottate negli ultimi anni, per esempio per quanto riguarda la benzina, servono? Sono palliative, nel senso che siamo in attesa di una riforma strutturale di sistema che possa abbattere e portare sulla fiscalità generale le accise. E questo è fondamentale, e per cui l'esposizione ai prezzi medi, abbiamo visto, non ha portato alcun beneficio sostanziale. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra i rincari di praticamente qualsiasi cosa c'è anche qualcuno che se ne approfitta. Sentiamo. Arriva a casa della madre 93enne e la trova al buio. Un dispositivo difettoso faceva scattare il salvavita. Il figlio, allarmato, attraverso un sito che offriva assistenza H24, ha contattato l'elettricista d'emergenza che, dopo neppure tre quarti d'ora di lavoro, ha chiesto un compenso di 730 euro, riducibili a 600 se avesse pagato in contanti. L'uomo si è rivolto all'ADOC e ai carabinieri, ma i casi di prezzi esorbitanti per interventi di idraulici, elettricisti o anche fabbri d'emergenza si stanno moltiplicando, ci assicura Antonella Santarelli dell'ADOC di Pordenone. Trovano un terreno molto fertile queste organizzazioni di speculatori nel web, nei motori di ricerca. Riescono a infiltrarsi online tra gli annunci delle persone che invece offrono questo servizio onestamente, quindi mettono in campo anche una concorrenza sleale. Ci sono alcuni accorgimenti per non incappare in queste trappole. Eliminare completamente quelli che non hanno il numero della Camera di Commercio, che non hanno un'indicazione di una persona fisica, che non hanno una partita IVA, che indicano solo il numero del cellulare. Dopodiché bisogna chiedere il preventivo e infine, se succede la peggio, avere il coraggio di denunciare. Si rivolga a un'associazione dei consumatori e non deve aver paura neppure di andare dai carabinieri. Noi volentieri lo accompagniamo a fare la denuncia. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il calcio. L'Udinese ha ufficializzato l'ingresso di Gilberto Ribeiro Andrade come collaboratore tecnico nello staff guidato da mister Gabriele Cioffi. Il portoghese, 43 anni, con una solida esperienza in club della massima serie portoghese all'estero, andrà a integrare lo staff bianconero e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro l'Atalanta. E sarà ancora emergenza in difesa con Cabasele squalificato e Christensen ancora out. Masina è pronto soltanto per la panchina, quindi si profila l'arretramento di Joao Ferreira sulla corsia di destra e Perez dirottato a sinistra. In attacco si rivede Semedo, che potrà entrare nelle rotazioni con Luca e Success. La pagina della cultura, mosaicamente, l'esposizione di opere musive organizzata dalla Fondazione Bambini Autismo, giunta alla 17ª edizione, che si inaugurerà a Pordenone, a Palazzo Montereale Mantica, alle 18. Gli autori, con il supporto di maestri mosaicisti e terapeuti, hanno creato opere che reinterpretano a mosaico lavori di grandi nomi dell'arte. Tema delle composizioni di questa edizione, dalla pop art alla street art, l'allestimento sarà visitabile fino al 17 dicembre, il venerdì dalle 17 alle 19.30 e nei weekend dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, a ingresso libero. All'inaugurazione interverrà Alessandro Del Puppo, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Udine, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento sulle correnti artistiche che hanno ispirato i lavori in mostra. Gli aspetti peculiari essenzialmente sono due, cioè da un lato attraverso la pop art l'infrazione definitiva dei confini che ci sono stati per decenni, se non per secoli, tra l'arte commerciale e l'arte colta o d'avanguardia. Non è vero che tutto può diventare arte, ma molte cose della vita contemporanea possono essere viste e interpretate in maniera artistica, e questo è il primo grande insegnamento di Warhol e di tutti i suoi amici. La street art invece implica un altro problema, un'altra questione, cioè letteralmente l'apertura dell'opera d'arte allo spazio pubblico e a un pubblico che non è più quello mediato dalle gallerie e dai in una sorta di cortocircuito. Gli artisti cioè si presentano molto spesso anonimamente e vivendo negli spazi pubblici, quindi con un destinatario che di volta in volta cambia, è mutevole, e qui anche innumerevoli occasioni e sorprese di incontro e talvolta anche di scontro. Quali le difficoltà nel reinterpretare queste correnti artistiche con un mezzo espressivo, quello del mosaico, che sembrerebbe lontanissimo, no, dalle opere di Warhol anziché di altri autori americani del periodo? È vero, però devo dire che l'abilità delle ragazze e dei ragazzi, e soprattutto anche con l'aiuto dei maestri mosaicisti che li seguono in questo lavoro, sta proprio nel raccogliere questa sfida, cioè nell'utilizzare una tecnica che apparentemente ci sembra desueta e saperla coniugare mettendola, come dire, in relazione con le forme più, talvolta anche più estreme della contemporaneità. Non si tratta di rifare la pop art, ma di capire come il mosaico a sua volta può reinterpretare lo spirito, le immagini, i colori e tutte quelle fluorescenze, insomma, che noi associamo in questo caso alla pop art o alla street art. Fino a domenica tutta la RAI è al fianco di Fondazione AIRC nei giorni della ricerca per raccontare i progressi per la cura del cancro e sostenere il lavoro di 6.000 scienziati. Trasformiamo la ricerca in cura, doniamo con uno o più SMS al 45521 oppure con una chiamata da telefono fisso sempre al 45521 oppure su airc.it. Nuovo appuntamento domani mattina sulla terza rete RAI con la rubrica della TGR settimanale. Eccone un'anticipazione. Torna settimanale in questa puntata sulle orme dei bracconieri nei boschi del Bresciano, tra richiami vivi, trappole e uccelli destinati al mercato nero della selvaggina. In Toscana i raccolti persi e i vivai distrutti dall'alluvione. A Quazze l'ultimo tessitore che lavora alla canapa su antichi telai. Nicola Bartolini, capitano della nazionale di ginnastica, il sogno raggiunto delle Olimpiadi. Le pulizie d'autunno del Po. Fiumare minoritano, dedicati al cantante una piazza, una strada e un museo. La Cassata, la regina dei dolci siciliani dalla storia millenaria. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. E si chiude così questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beers, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.